Oh.

function. What is what? cosa? sole l'ancora più su, mentre il mondo cambia. Spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Adorare.